E allora ci siamo, ci riproviamo. Luca, ci sei? Ci sono. Eccoci qua. Allora, dicevamo, riprendiamo Entropia Massima questa sera in formazione ridotta per una serie di contingenze, appunto, sia in radio che fuori abbiamo una serie di assenze, e quindi ci sentiamo invece con Luca per riprendere il discorso iniziato qualche puntata fa, quindi un paio di mesi fa, sulla protezione civile, quindi sugli 87.9, 06, 49, 17, 50, parliamo di scienza e potere. Allora, perché riprendiamo ancora il discorso protezione civile? Ne riparliamo perché nella nostra interpretazione, nel nostro filone di scienza e potere, la protezione civile è effettivamente un anello di congiunzione, diciamo, fondamentale tra quella che è scienza, cioè raccolta dati, elaborazione dati, e quello che poi invece è la gestione del territorio, e quindi di conseguenza potere a livello economico, potere a livello gestionale. Quindi la volta scorsa avevamo approcciato il discorso dal punto di vista degli aspetti legati proprio a come è costituita la protezione civile e quali sono stati nel tempo i rapporti con i vari governi e come è cambiata quindi nel tempo la protezione civile e il rapporto appunto a chi era effettivamente in quel momento nelle varie fasi, a parte nelle varie fasi di emergenza, ma anche proprio come strutturazione della protezione civile, come è stata nel tempo appunto a seconda del governo che c'era. E abbiamo visto anche, avevamo invitato a parlare le brigate di solidarietà attiva per vedere appunto qual era la differenza, la necessità del perché siano nate le brigate di solidarietà attiva rispetto appunto alla presenza comunque della protezione civile sul territorio. E in questa puntata, dopo aver parlato appunto protezione civile e governo, vorremmo invece approfondire il rapporto fra protezione civile ed enti di ricerca, perché è l'anello appunto di congiunzione con dati, con raccolta dati, elaborazione dati, elaborazione e interpretazione di quello che succede nel territorio. E quindi per riprendere effettivamente, diciamo, dal punto di vista organizzativo, qual è l'organizzazione della protezione civile in rapporto proprio agli enti di ricerca. Di questo ci vuoi dire qualcosa, Luca? Sì, certo. Voi mi sentite? Sì, forte e chiaro. Okay. Allora, intanto specificherei che dal preambolo che parliamo di un certo settore di scienze, che è quello dei rischi naturali. Quindi di fatto sicuramente la protezione civile è una, come dicevi tu, è un anello tra la struttura di governo centrale e locale e il mondo della comunità scientifica relativamente ai rischi naturali, in particolare ai rischi naturali che più regolarmente, più direttamente coinvolgono il territorio italiano. Quindi ci parliamo di terremoti, alluvioni terremoti e alluvioni, quindi il rischio sismico e idraulico. Poi ci sono anche altri rischi come il geomorfologico, e altro che rivestono un ruolo diciamo di minore importanza. I rischi principali per cui si muove la protezione civile sono sicuramente il sismico e alluvioni. E per gestire le fasi di emergenza nella maniera, diciamo, più appropriata e più rispondente a criteri scientifici, la protezione civile si avvale di due organi, che convoca appunto nelle situazioni di emergenza. Uno è la Commissione Grandi Rischi e l'altra è il Comitato Operativo. La Commissione Grandi Rischi è propriamente un organo di consultivo, diciamo, del Dipartimento di Protezione Civile, che è completamente di tipo scientifico, ne fanno parte accademici, figure rilevanti delle università sono convocati nel momento in cui devono dare un parere su una situazione che possa creare allarme. Quindi in occasione di, per esempio, dello sciame sismico, ricordiamo quello del 2009, prima che la missione Grandi Rischi, settore sismico, venne convocata per dare un parere sulla dinamica in corso, e questo avviene per i diversi rischi, per il rischio vulcanico. Prima mi sono scordato, ovviamente il rischio vulcanico è un altro dei rischi principali che coinvolgono comunità scientifica e protezione civile. E invece, diciamo, il comitato operativo è quella struttura che coinvolge le più diverse realtà che contribuiscono all'azione di protezione civile, dalle forze dell'ordine alla Croce Rossa, al Ministero della Salute, alle infrastrutture e anche alla comunità scientifica, nelle figure di quattro enti di ricerca che sono l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, e l'ENEA, che è l'Agenzia per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, diciamo, lo sviluppo economico sostenibile. E di fatto queste quattro figure sono convocate hanno un ruolo specifico di fatto per i diversi tipi di rischio. L'INGV è ovviamente il riferimento univoco per in caso di terremoti e eruzioni vulcaniche, quindi rischio sismico, rischio vulcanico. E dove ci sono altri tipi di rischio vengono convocati di volta in volta, cioè vengono sentiti di volta in volta e sono coinvolti nelle attività di protezione civile più o meno gli altri enti. Un ulteriore livello di coinvolgimento della comunità scientifica poi è quello dei centri di competenza, che sono realtà del mondo della ricerca pubblica e privata che svolgono un'attività di, diciamo, consulenza per la protezione civile sia nelle fasi di emergenza sia nelle fasi non di emergenza, quindi di pace, di quiete. E questi centri di competenza, alcuni sono delle eccellenze nell'ambito accademico, quindi universitario, o degli altri centri di ricerca pubblici, e altri sono delle vere e proprie realtà private costituite appositamente dalla protezione civile per avere un braccio operativo, una consulenza operativa in caso di bisogno per specifiche tematiche. Luca, scusa se ti interrompo. Leggo. Non ti sento al telefono, solo alla radio, ma non voglio avvicinarmi alla radio. Ah, ok. Ora sì. Ti interrompo solo un momento, cioè per specificare che leggo dal sito appunto della Protezione Civile che tra le strutture operative e appunto come soggetti pubblici abbiamo una serie di enti di cui tu ne hai accennato qualcuno, l'INGV, l'ISPRA, Ma poi ci sono anche tutte le ARPA, cioè tutte le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le autorità di bacino, e beh, il CNR ovviamente, il Centro Nazionale di Ricerca, se l'hai già detto, e ci sono i vari istituti, Istituto Nazionale di Oceanografia, di Scienze per l'Atmosfera, e questi qui sono tutti soggetti pubblici che stabiliscono delle convenzioni, e di questo poi parleremo anche nella seconda parte, e sono appunto soggetti pubblici che vivono e hanno finanziamenti comunque a prescindere dalla protezione civile. E poi, come dicevi tu, invece i soggetti partecipati, che sono quattro fondamentalmente, di cui stavi iniziando a parlare, giusto? Sì, sì, più o meno sì. Diciamo che io avevo accennato a quelli che sono i principali enti di ricerca che con cui la protezione civile interagisce. Poi ovviamente ce ne sono, come centri di competenza ne sono stati accreditati diversi altri. Questi poi soggetti i privati sono, sì. Ora vediamo se corrispondono a quattro. Io ho presente il centro EU Center, sì, e esatto. Il consorzio Reluis, che sono fondamentalmente sono mi sembra a livello di formalmente sono delle fondazioni e sono operative in ambito sismico. Poi c'è la Fondazione CIMA, che invece è un riferimento in ambito di rischio geoidrologico, quindi alluvioni e frane. E la quarta è il consorzio interuniversitario, il Comprici, che si occupa soprattutto sempre dal punto di vista sismico, è una rete di laboratori universitari sempre Comprici, sempre rete di laboratori universitari. Sì, hai ragione. E poi oltre questi privati, e una serie di università direttamente che stabiliscono sempre delle convenzioni dirette con la DPC, col Dipartimento della Protezione Civile, che sono sempre, diciamo, sia pubbliche, perché anche private, no, sono comunque pubbliche. Ah sì, a livello di università fondamentalmente i riferimenti sono pubblici. Ultimamente, quando c'è stata ad esempio la frana sulla 6 Torino Savona, sì. Quindi in ambito di rischio geomorfologico il riferimento ad esempio è il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che viene chiamato per i sopralluoghi in fase di emergenza e le prime azioni per gestire la fase subito post emergenziale. Prima parlavamo della Commissione Grandi Rischi e del Comitato Operativo, che sono organi della protezione civile che non percepiscono un finanziamento per l'attività che conducono, se non in caso di emergenza, in caso operativo, proprio in fase di emergenza, un rimborso per le spese vive che sostengono. Invece la cosa più importante è il rapporto economico che c'è fra il Dipartimento di Protezione Civile e i centri di competenza in fase di pace, quindi per tutta quanta l'attività che conducono nelle fasi intra-emergenziali che costituiscono con cui questi centri di competenza finanziano parte della propria ricerca e della propria attività di monitoraggio, ad esempio di NGV. Aspetta, ti interrompo, Luca, scusami, del finanziamento parliamo subito dopo la pausa. Un breve stacco musicale con Gogol Bordello. We'll be right back. When death comes, I won't be there. In fact, I will not be found anywhere. Not in Nevada, on Chamalugma or Guadalajara. 'Cause I'll be climbing top of a never, never rest with my contaminated friends. Again I am Wahoo Vasco da Gama. In my head pulses Bob Marley and Nacho Slama. I'm on a quest for solar amalgama. I'm on a quest for a never, never rest with my contaminated friends. They were just nomadic forces. Kill all the men, steal all the women and the horses. Then later on moved on to the pursuit of spices. And finally, the rest of all the vices. But in the wake of that transcontinental hustle, the warning clock, it went up in flames. And by the time we built it up the muscle, there was no time for space left to claim. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Iglesia de la calle, transcontinental, cigano urbano, marraca rural, samba. We're gonna build new kind of globalizer, without a panzer, Faust or a Schmeiser. And may the sound of our contaminated beat sweep all the nutty purists of their feet. Hey, hey, hey, hey, halle, halle, ho, halle, halle, hey. Hey, hey, hey, hey, halle, halle, ho, halle, halle, hey. Hey, hey, hey, hey, halle, halle, ho, halle, halle, hey. Yeah. E allora ritorniamo in voce, entropia massima 87.9 su Radio Onda Rossa. Riparliamo e riprendiamo il discorso di scienza e potere dal punto di vista appunto dell'anello di congiunzione fra scienza e potere, che è proprio la protezione civile. Abbiamo visto in puntata precedenza il rapporto con i governi, in questa puntata stiamo vedendo invece il rapporto fra la protezione civile e gli enti di ricerca che forniscono i dati e le interpretazioni anche dei dati durante la fase sia di prevenzione, sia nella fase di previsione che nella fase di previsione, che sono le due fasi fondamentali in cui agisce la protezione civile, prima della fase di emergenza, che sarebbe nel concetto la terza fase, seguita poi alle fasi di ripristino del post-emergenza. Quindi stiamo parlando delle fasi che in cui la protezione civile lavora prima dell'emergenza. E stavamo affrontando quindi il nuovo, diciamo, il filone, sia dal punto, abbiamo visto quali sono gli enti di ricerca che effettivamente forniscono i dati, vediamo però invece anche quali sono, appunto, come avvengono i finanziamenti, perché anche questo è un aspetto molto importante, cioè il flusso di denaro che parte dalla Protezione Civile, che è un ente che viene direttamente dalla protezione alle dirette dipendenze del Consiglio dei Ministri, quindi diciamo appunto è per questo è l'idea dell'emanazione diretta del governo, quindi il concetto di potere di azione sul territorio. Quali sono i due aspetti fondamentali del fatto che la Protezione Civile stessa ha erogare i fondi? Da un certo punto di vista l'aspetto positivo è quello che riesce, o quello che ha fatto in passato, è quello che riesce a, cioè riesce, lo scopo è quello di riuscire ad avere un'omogeneizzazione dei dati sul territorio, perché la cosa molto difficile, immaginiamo dati che vengono prelevati sul territorio da tanti enti di ricerca diversi, da tante persone quindi diverse, devono avere una base comune, una griglia, diciamo un riferimento comune per poter essere utilizzati in comune. E questo aspetto, appunto, la Protezione Civile cerca di ovviare alle immancabili errori, ma incongruenze fra i dati, fornendo le linee guida per come devono essere forniti i dati e come devono essere rilevati, ma soprattutto anche chiedendo o strutturando dei punti nodali, come ad esempio la sala sismica, l'INGV. Si occupano di sismicità vari enti, anche all'interno dell'ISPRA, anche lo stesso discorso vale per le frane, come abbiamo visto anche domenica scorsa. Ci sono dei dati che non collimano bene fra una regione e l'altra, e queste sono tutte cose che in un'azione di protezione civile, di azione diretta sul territorio, nel momento dell'emergenza, ma proprio anche per pianificare l'emergenza, quindi per produrre i piani di protezione civile, ovviamente i dati devono essere omogenei, altrimenti non si riesce a creare quello che può essere il piano di protezione civile del comune, del singolo comune, della singola zona. Quindi evidentemente è la Protezione Civile che fornisce il finanziamento. Ci sono dei rientri in radio, Luca, mi sa che vengono da te. Chiara, se non mi metti al telefono io non riesco a sentirti, devo fare la radio. Dicevamo, la criticità è il fatto, cioè l'aspetto positivo è quello che la Protezione Civile si impegna proprio per necessità alla omogeneizzazione dei dati. La criticità fondamentale è che inevitabilmente in questo modo finanzia dei filoni di ricerca, cioè una parte dei finanziamenti di questi enti pubblici e parte dei privati, ovviamente sono decisi, stabiliti dalla Protezione Civile, e quindi qui si innesta il discorso del rapporto fra il filone che viene dalle necessità di protezione civile, ma di gestione del territorio, quindi da un dato approccio rispetto alla ricerca di base. E quindi un paio di dati volevo dare, poi lascio la parola a Luca per un commento su questo. Ad esempio, nella convenzione fra la Protezione Civile e l'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che si occupa di prevenzione sui di prevenzione di analisi dei dati, dove è situato la sala sismica e si occupa di terremoti, vulcani principalmente. Nel 2017 c'è stata un'erogazione, cioè la convenzione fra Protezione Civile e INGV si aggira intorno ai 10 milioni di euro, suddivisi in circa 4 milioni di euro per l'area terremoti, 223 mila euro per l'area vulcanica, del rischio vulcanico, formazione, comunicazione e divulgazione circa 500 mila euro e altri 500 mila euro per il centro di allerta tsunami. Per un totale di insomma, nelle varie spese si arriva a circa 10 milioni di euro, e questo per il solo 2017, ovviamente in concomitanza con terremoti del Centro Italia, mentre vedendo la convenzione fra sempre INGV e DPC, il Dipartimento di Protezione Civile, si per questi ultimi tre anni, cioè 2019, 2020, 2021, stiamo intorno ai 3 milioni di euro, quindi circa 2 milioni, no, circa 1 milione 200 mila euro per anno per questi tre anni. È evidente la differenza, ma è evidente anche diciamo la diversa necessità. E anche Sara. Sì, eccoci. Scusami, intervengo, si stringe. Giustamente tu hai fatto notare quante un'idea di quelle che sono le risorse che vengono date direttamente dalla Protezione Civile a un ente di ricerca specifico, che è l'INGV. E sembrano cifre particolarmente elevate, e in effetti in parte lo sono, se poi andiamo a contarle con il budget complessivo di un ente di ricerca come l'INGV, in cui il finanziamento della Protezione Civile copre una buona fetta, ora non saprei dire in che termini percentuali, però sicuramente in qualche fetta del budget dell'INGV. Ma questo non vuol dire che la ricerca che ci lucra, ci specula o in qualche qualcosa di questo, sono risorse che sono necessarie per la gestione e il pagamento dello stipendio delle persone che lavorano nella sala sismica e che conducono ricerche adeguate alla funzione di consulente della Protezione Civile. No, no, il assolutamente. Scusa, scusa Luca. Rapporto stretto che si determina tra un ente di ricerca e un organo che deve prendere delle decisioni a volte critiche, a volte direttamente connesse con dinamiche politiche. Il riferimento viene spontaneo alla dinamica dell'ARU, di fatto al di là di quello che sono le soluzioni processuali che ne sono seguite, lì c'è stata sicuramente un'interazione di interessi politici e di gestione dell'emergenza. Quindi di fatto la politica ha sicuramente interferito nella gestione dell'emergenza, manifestando la necessità di non allarmare eccessivamente la popolazione. Quindi lì c'è stata una rappresentazione plastica del rapporto non propriamente sano di subordinazione di un ente di ricerca all'organo politico. E questo lo dico perché sarebbe sicuramente più sarebbe auspicabile che invece un organo scientifico, un organo di riferimento di consulenza scientifica fosse indipendente, assolutamente indipendente da un organo che è di diretta, come è sottolineato, che è di diretta dipendenza dal Consiglio dei Ministri e quindi di diretta dipendenza dalla politica. Questo è un auspicio che si possa procedere in una maggiore autonomia di tutti quanti gli enti di ricerca, però al momento sappiamo che languono in condizioni di scarsi finanziamenti, per cui chiunque si metta a disposizione cifre per il mantenimento delle attività anche di base, ovviamente è ben venga. No, assolutamente. L'altro aspetto critico che volevo sottolineare è quello delle degli allarmi, che richiama sempre l'evento dell'Aquila del 2009, ma ci sono altri casi in cui la comunità scientifica ha dato segnali di superamento della soglia di allarme minimo e quindi necessità di procedere all'avvio dei protocolli di protezione civile, e poi ce ne sono, in alcuni casi sono avute dinamiche non positive, nel senso ci fu un terremoto previsto a un certo punto nella zona di Carrara dell'Alta Toscana negli anni, se non sbaglio, negli anni 80, fine anni 80, e che poi non si determinò, e quindi l'allora capo della protezione civile Barberi fu, se non sbaglio, se la dinamica mi sembra fosse andata proprio più o meno così, fu comunque messo sotto processo e gli venne chiesto conto del falso allarme che aveva determinato. Questo per dire che anche per la comunità scientifica dare degli allarmi è un qualcosa di molto delicato, perché non possono dare il proprio parere in maniera completamente libera, per due motivi: uno, perché possono avere delle ingerenze politiche, e l'altro perché devono sapere che ci sono dei riscontri economici non indifferenti, perché se si dà un allarme, tutto quanto le operazioni che ne seguono comunque costituiscono un onere economico per lo Stato, per cui è un qualcosa che va pesato adeguatamente. Oh, ecco, e anche un altro punto, oltre questi due che hai accennato, che sono già molto legati comunque alla politica, ma un punto fondamentale è quello della reale conoscenza del fenomeno, nel senso le attività di prevenzione che si basano sulla previsione. La previsione deve essere basata su una conoscenza approfondita della tematica e su molti aspetti, in molti campi. Questa conoscenza così approfondita non c'è effettivamente, ne parlavamo. Un momento, pesiamo le parole. Allora, in ambito scientifico, in ambito di rischio sismico, di rischio in cambio di rischio sismico ci sono le maggiori competenze a livello nazionale e internazionale negli organi di riferimento della protezione civile. Competenze senza dubbio, però proprio ci sono dei limiti comunque nell'interpretazione. Arriviamo a un certo livello di profondità di analisi delle faglie attive, a un certo livello. Quindi, cioè, effettivamente non si può prevedere quando ci sarà e dove ci sarà il prossimo terremoto. Si può sapere il rischio, quindi la probabilità che ci sarà. Quindi è evidente che comunque. Chiara, per cortesia, un attimo, fermati un attimo. Sì. Allora, a livello di pericolosità si conosce, a livello di pericolosità sismica si conosce approfonditamente il territorio italiano e si conoscono abbondantemente quali sono le aree a maggiore pericolosità. Assolutamente. Quindi quello che non, sicuramente non si conosce è quando può avvenire un certo terremoto, quindi si conosce il dove ma non si conosce il quando. Assolutamente. Ovviamente questo certo. Dà, permette di fare delle elaborazioni, di analisi su quali sono le condizioni di rischio. Che non ci sia conoscenza adeguata è un'affermazione probabilmente non cioè forse volevi dire che sottolineando un limite che magari non sono quello sismico, magari per il rischio ad esempio frane non si conosce adeguatamente la distribuzione delle frane sul territorio. Questo è un altro aspetto che abbiamo affrontato domenica scorsa, esatto. Ed è vero, ma è abbastanza lontano dalle questioni di protezione civile, non è direttamente coinvolto nelle questioni di protezione civile. Ok, comunque il discorso è sia dal punto di vista appunto economico, politico e gestionale, comunque il livello di approfondimento di sicuro è tra i più alti, la conoscenza del territorio è tra le più alte di sicuro in Italia, va bene, però esistono comunque ancora dei limiti, ancora ci sono studi e gli studi sono attivi e si cresce certo e si approfondisce di anno in anno. E i fornimenti migliori alle amministrazioni locali è sicuramente un auspicio corretto. Chiara, ti devo abbandonare perché sento che se mi avvicino alla radio vai in risonanza e si sente malissimo. Sì, ma diciamo che effettivamente saluto Luca e ringrazio. Grazie Luca. Grazie a tutti. Grazie, un saluto. Ma effettivamente siamo arrivati comunque alla fine della trasmissione, che anche se a ranghi ridotti siamo quasi arrivati al limite della fine delle nove, e quindi direi che come riassunto il concetto è quello che dal punto di vista del rapporto appunto fra scienza e potere la protezione civile costituisce un passaggio fondamentale, un passaggio, e poi lo vediamo tutti i giorni, l'abbiamo visto a Roma anche venerdì, ma diciamo nel poi agisce nella vita quotidiana. Comunque si sente la presenza e il rapporto fra l'interpretazione dei dati e il livello decisionale e quello che sono le azioni di prevenzione e di monitoraggio del territorio. In questo appunto la protezione civile è l'ente nazionale che più è significativo. Quindi rimando al prossimo lunedì per una nuova puntata di Entropia Massima e al prossimo anno invece per una nuova puntata di Scienza e Potere. Quindi un saluto a tutte e a tutti, in particolar modo a chi è privato della propria libertà personale.